Come annunciato a inizio trasmissione, a questo punto abbiamo fatto entrare il nostro ospite qua in studio. Stiamo parlando di Ciro Pagano, di Gas Nevada, in occasione appunto di questo Going Underground, questo docufilm che sarà lunedì nei cinema, qua a Bologna esattamente, al Galliera. E quindi Ciro Pagano è qua con noi. Grazie Ciro per aver accettato il nostro invito. Ma intanto, grazie a voi di aver pensato a noi. Ma figuriamoci. Grazie per l'invito. Sono felice di essere tornato a Fujiko. Bene, molto bene. È già venuto? Sì, in passato. Avevo avuto modo. Ah, bene, bene. Quindi sapevi dove era. Non questa sede. Allora, Going Underground è il motivo per cui ti abbiamo voluto qui, docufilm con la regia di Lisa Bosi, produzione Zone Film e Wanted Cinema. Come mai, Ciro, questa tua decisione, vostra decisione, di acconsentire alla realizzazione di questo documentario? Dunque, premetto che è una storia abbastanza, è molto intensa la storia dei Gas Nevada e il percorso che hanno fatto, perché eravamo ragazzi irrequieti, la storia è abbastanza ruvida, avviene in un periodo storico difficile che è quello della fine degli anni 70, quindi cosparso di lotte, in un contesto difficile politico, sociale, tensioni, droghe, eccetera, eccetera. Lisa però si è avvicinata, quando Lisa ci siamo conosciuti in occasione di una performance che facemmo io e il bassista al Dams, dove raccontavamo appunto quella storia e facevamo successivamente un DJ set dei nostri brani rivisitati per l'occasione. Lisa si è avvicinata e mi ha proposto la cosa che ho subito poi rilanciato sui ragazzi, che ho rivisto poi con grande piacere, alcuni non li vedevo veramente da tanti anni, di raccontare la nostra storia però in maniera, mi piace la parola, visionaria, quindi da un punto di vista artistico, e quindi ho accettato, dopo aver rifiutato diverse volte anche di partecipare a narrazioni sul nostro passato. Lisa è stata bravissima, secondo me questo è veramente un documentario che apre un punto di vista unico su quella nostra storia. Perché i Gas Nevada nascono e rimangono artisti fondamentalmente, non altre cose, quindi è la parte artistica, no, che ti interessa. Sì, assolutamente. Siete nati come? Chi sono i Gas Nevada per chi non li conosce? Allora, i Gas Nevada, giusto per definire la parola di irrequietezza, partono in sette e arrivano in due, quindi... e quindi già percorso no, a ostacoli è lungo, e quindi qualcuno si stanca. È lungo. Adesso prova a ricordare a grandi linee, perché è un percorso molto lungo. Noi nasciamo come Gas Nevada nel 77, dopo, nel novembre del 77, dopo un viaggio di alcuni di noi a Londra, che vanno a Londra e rientrano febbricitanti da questa formidabile onda punk che stava nascendo a Londra. E devo dire che però noi eravamo più indirizzati sul punk americano, quello dei Ramones, la grande rivoluzione delle canzoni che passavano da 10 minuti di suite del rock progressivo a 2 minuti per brano. E qui dobbiamo ricordare Gas Nevada Plays Ramones. Arrivavo lì. Noi facciamo un'esibizione nel settembre del 77 come Centro Ludo Metropolitano. Eravamo già quasi tutti, mancava il bassista Marco Nevada, che entrerà poi successivamente col primo singolo. E facciamo questa esibizione con questo brano che si chiama Mamma dammi la benza, che all'epoca era un brano assolutamente fuori da qualunque schema, perché sui palchi passavano i cantautori, la musica cantautoriale, soprattutto sui palchi, diciamo, alternativi legati a un certo tipo di cultura. Noi arriviamo con un brano che è avulso da quel mondo lì, perché ha sonorità punk, un testo completamente demenziale che fa riferimento. La benza è la benzina che si usava nelle Molotov e la benzedrina che si usava per stare svegli e attivi, e che era questa anfetamina. E ci sbarazziamo subito di questo brano, che dopo, nella figura del grande Frick Antoni, il rock demenziale ha avuto poi uno sviluppo molto importante con gli Schiantos. E noi però avevamo questa cosa che noi credevamo in quello che facevamo, ci interessava prima parlavamo di essere artisti, perché noi interessava il modo di esprimersi a 360 gradi, non solo la musica, i disegni, scrivere, fare tante cose. Ma in questo il punk è stato maestro, perché il punk ha influenzato tutte le arti fondamentalmente, eh? Sì, certo, noi però dal punk poi siamo fuggiti quasi subito, perché fatta la cassettina dove c'erano i brani punk, quella che poi grazie a Gasnemar e Sin Ramones fummo ingaggiati dall'Italia Record per fare la cassetta, la prima cassettina, che si chiama Gas Nevada, ma noi la chiamiamo cassettina perché ci piace di più, come la, era l'Harpo's Bazaar. L'Harpo's Bazaar, all'epoca, sì, scusate, sì. Era, all'epoca era l'Harpo's Bazaar, che poi si trasformò in Italian Record. E, per cui facemmo questa cosa, ma fuggimmo subito, già nel poco dopo, direi nei primi degli anni 80, forse anche a fine 79, facemmo un brano che era Nevada Gas Blue TV Set, un 45, che aveva connotazioni new wave e no wave fortissime, quindi avanguardia. A noi piaceva quello, noi rincorrevamo l'avanguardia, esatto. Fatto una cosa, cercavamo un'altra cosa che ci stimolasse di più. All'interno della casa occupata, di cui si racconta tanto nel documentario di Lisa, Going Underground, c'era questa sorta di... noi volevamo essere una succursale della Factory di Warhol, anzi eravamo nel nostro animo la succursale non autorizzata della Factory di Warhol a Bologna. Beh, mi sembra un'ottima definizione, direi, e per quanto riguarda la Traumfabrik. La Traumfabrik, che era questo posto, lo raccontiamo brevemente, in pieno centro a Bologna, occupato da Filippo Scozzari, Jean-Pierre Huber, che era il primo bassista di Gas Nevada, e una ragazza che poi andò subito via, e dove albergavano artisti vari, c'erano Andrea Pazienza, fumettisti importanti, c'erano scrittori, c'erano registi, poi da lì venne la casa era frequentata da Renato De Maria, che adesso è un regista di successo, e c'erano i Gas Nevada, noi eravamo i Velvet Underground. Esattamente, della succursale Gas bolognese. Nevada sono anche stati soggetti di Andrea Pazienza. Sì, no? io ero Zanardi, avevamo anche un diverbio, perché a me non mi piaceva essere Zanardi, però alla fine... Però adesso dai. Andrea era una cara persona, veramente una cara, un vero artista. Andrea vedeva le situazioni e le riportava come erano in un attimo. Poi nel docufilm ci sono anche proprio narrazioni rispetto a quello che era, c'è anche un suo intervento. Quindi sì, c'è un racconto dettagliato. Lisa ha passato, credo, 2 o 3 anni sopra questo progetto, sopra a cercare tutto di noi, insomma. Bene, direi che ogni cosa che ci sta raccontando ci spinge a essere presenti alla proiezione. Assolutamente. Di questo... I 3 giorni a Galliera, 24, 25 e 26, sono un buon modo per rivedere dall'ottica giusta quello che era quel periodo. Il 24, diciamolo, ci siete anche tutti voi. Arrivavo anche lì. Il 24 in particolare ci saremo tutti Gas insieme a Lisa, che... pronti a raccontare o dettagliatamente o a rispondere in maniera meno dettagliata a quanto ci verrà richiesto. Insomma, dovrebbe essere una bella serata. Lo sarà. Mi sembra che dica Andy Warhol qua. Dice Andy Warhol. Esatto. Questo è l'intervento di Giorgio, che fece, perché un piccolo aneddoto, noi litigammo molto per fare questo Mamma Dammi la Mela, proprio perché era legato al rock demenziale, già che era già cominciato nel 79, e non volevamo fare. Giorgio infatti alla fine si convinse, però chiuse con questo bellissimo Andy Warhol la firma. E poi di questo pezzo c'era anche la versione precedente, che era nella cassetta che uscì dopo il convegno del 77, Sarabanda, sì. Il canto di Alice, erano 2 cassette, sì. Dove oltre alla registrazione della chiusura di Radio Alice vi erano diversi contributi musicali. Sì, direi che il nostro era quello più avanti, insomma. Sì, sì, sicuramente era quello. C'erano i cantautori. Cantautori. E poi c'erano Ugo. Bastianini. Ugo Bastianini, che era Cerchi Mocassini. Ma adesso non il testo non lo ricordo, però il titolo sì. E c'era Mamma la Milanese, però fatta dal centro d'Urlo metropolitano. Sì, era che... diciamo più grezza, non so come dire, ma rispetto a questa versione. Sì, sì, era un po' più elaborata, perché quella lì la facemmo direttamente, era una diretta, perché c'era la fonoprint, venne registrata, sì, in fonoprint, che c'era uno spazio lì, noi non dovevamo entrare in quella, né in quella cassetta né nel concerto di Piazza dell'Unità, però avevano uno spazio, ci chiamarono, andammo là, perché era così, no? Prendi gli strumenti, io mi ricordo andai a casa di corsa, perché ero in clavature, abitavo in Mazzina, andai, presi la chitarra, corsi e suonammo in diretta tutto. Pensa alla Phonoprint che apriva le porte anche queste, diciamo, nuove tendenze. Ma la Phonoprint è sempre stata molto legata, sì, sì, al territorio. Certo, certo. Per poi esplodere col successo che ha avuto, sì, che ha firmato tante registrazioni importanti. Certo, beh, chiaro. È uno studio eccezionale adesso, sì, proprio all'altezza di studi. Lo è sempre stato, sì, poi, perché anche sono anche le visite guidate adesso. Oltre a Abbey, certo, Road si va anche alla Phonoprint. Ho letto che c'è anche una visita guidata sui luoghi di pazienza dei Gas Devana. Voglio, sì, iscrivermi per andare a vederla. Così vai in su Bologna. Su Bologna. No, so, no, ma... beh, è difficile, ma comunque so che c'è una visita guidata sui luoghi del punk. Questo me lo ricordo. Laura De Lauris. Con la curata da Laura De Lauris dei Raff Punk. Okay. E ci sarà collateralmente c'è anche questo. Ah, ho letto, insomma. No, quindi no, bisogna farla. Un po' di pubblicità la facciamo. Giustamente. Torniamo al docufilm Going Underground. Abbiamo detto non è un docufilm classico, quindi con intervista a voi oggi e flash del passato, intervista a voi oggi e flash del passato, no, perché questo un po' è lo standard, no, di quello che fanno, ma siamo su piani più visionari. Ma ci puoi raccontare qualche aneddoto del girato, di quando avete girato, insomma, questo film? Guarda, l'aneddoto che mi è rimasto impresso è il grande freddo quando abbiamo girato le prime scene che abbiamo girato sono quelle sui Calanchi nel bolognese, adesso non mi ricordo di preciso il punto, però c'era un freddo pazzesco, era dicembre, era il 9 dicembre, andammo su a girare queste scene in mezzo a questi Calanchi, questo spazio che nel docufilm sembra lunare, ma lo era anche a vederlo così, e c'era questo gran freddo, giravamo però stoici perché sapevamo che prendevamo freddo per una giusta causa. Vedi? Siamo un paesaggio lunare, hai detto? Lo è. Avevate le tute da astronauti, certo. Vedi che ho degli insider che mi hanno raccontato, certo, qualcosa. Però non tenevano il freddo, quindi... Non tenevano il freddo, no. Allora, noi abbiamo qui Ciro Pagano, ovviamente stiamo parlando dei Gas Nevada, ma Ciro Pagano è anche datura, no? Sì, quindi... il mio percorso poi è andato avanti, e quando abbiamo messo in pausa i Gas Nevada, dopo noi facciamo... In che anno è stato? Nell'88, facciamo un disco prodotto fra l'altro da Guido Elmi, la buonanima, il produttore di Vasco. Vasco, certo. E facciamo questo disco che uscì con la CBS, che poi l'anno successivo divenne Sony, e poi ci fermiamo perché non succedeva nulla, non successe nulla. Come sempre nei gruppi, poi se non hai poi riscontri, dopo diventa più complicato andare avanti. Io ho avuto la fortuna di conoscere, perché dopo questa pausa, diciamo, fatta con Gas Nevada, andai a fare chitarrista per i Righiera, per due tournée, e lì conobbi Stefano, che era il tastierista, e spesso nelle band che fanno, io non avevo mai fatto il turnista, le prime esperienze, si dice sempre dai facciamo qualcosa e dopo da lì a breve facevo un primo brano che ebbe abbastanza successo, che era si chiamava Carico, e poi successivamente da lì a poco facevo da tour, che ancora oggi è attivo, e devo dire che ci ha dato delle belle soddisfazioni in giro per tutto il mondo, direi, in giro per il mondo. Dopo siamo diventati mainstream, però con un progetto che era assolutamente anche lì avanguardia. Quando uscì Gli Erbe del Diavolo nel 92 non c'erano sonorità di quel tipo lì, era veramente un brano particolarissimo. Quindi guarda, dal punk all'italo disco al pop sembra un percorso molto lungo, lo e è. Irto di ostacoli, come si suol dire, lo è stato. Ma sì, dunque, se ti riferisci al passaggio, allo sganciamento dal punk con l'arrivo di Essi della Fer, che però sono passati diversi anni, perché Essi della Fer dell'83, il punk lo abbandoniamo nel 79 noi. Però purtroppo noi siamo sempre stati chiamati traditori, io in particolare sono un traditore, perché comunque la musica alcune volte, soprattutto un certo tipo di musica, viene confusa come militanza, no? Per cui se fai punk quando hai 20 anni devi fare punk quando ne hai 100, non funziona così. La musica è espressione, per cui sta in un ambiente musicale fino a quando quell'ambiente ti permette di esprimerti. Quando tu hai necessità diverse vai da un'altra parte, questo è. Ma questo è non solo nella musica, in generale, negli affetti, nella scrittura, quando compri le cose, quando vai in un negozio che compri una maglia, è sempre legato a quello che è il, come dire, quello che sono i tuoi momenti, le tue esigenze al momento, insomma. Quindi sono un traditore. Sono felice di essere. Allora. Ma forse sai, nei primi, parliamo a cavallo tra fine anni 70, primi anni 80, queste cose venivano un po' interpretate come traditori, perché comunque c'era un grosso nucleo che era legato al punk, a sì, certe tematiche anche politiche, no? Dopodiché, casomai col senno di poi questo traditore diventa un po'... Noi però la casa la occupammo con tutt'altri intenti, non con l'intento di fare assemblee, ma con l'intento di fare arte, di fare cultura, di fare Era una delle motivazioni, ecco. Era la motivazione principale. In quella casa non si parlava di politica, in quella casa si parlava di disegni, di colori, di fumetti, si facevano le prime fotocopie a colori, ci facevano tante cose, ma tutte sicuramente legate a una cultura, virgolette, alternativa dell'epoca, ma non politica. Noi non sì. Io personalmente non è che, ma così anche i ragazzi, non occupavamo quello spazio, venne occupato perché non c'era non c'erano i centri sociali all'epoca, no? Sì. Serviva uno sempre spazio, un problema gli spazi. È sempre stato un problema. Certo. Serviva uno spazio dove poter esprimersi. So che adesso è folle pensare di occupare una, però quello è un'intera palazzina. Ma comunque guarda, dai tuoi racconti, da quello di cui stiamo parlando, esce benissimo la visione di una Bologna che non esiste più al mondo, credo, una cosa del genere, una Bologna che ha reso anche possibile ai Gard Nevada di esistere. No, assolutamente. Assolutamente, tutto è partito da Bologna. In quegli anni era avanti, ma Bologna anche per il periodo successivo, quando ci fu la grande rivoluzione house del club, era in qualche modo la succursale di Riccione, della Riviera Romagnola, per cui c'era grande fermento negli anni 90 in quella direzione, quindi nei club, nei locali, c'erano locali importanti, il Kinky, il Link stesso, che venne dopo il Link, sì, successivamente. Adesso c'è tanto turismo. Esatto. E tanti tagliere con la mortadella. Sì. Tanti, Sì, sì. Ci sto lontano per motivi di linea. Ascolta, siccome il nostro tempo sta quasi per scadere, abbiamo parlato del passato, del presente, dimmi qualcosa del futuro. Allora, ti parlo del prossimo futuro. Intanto, esatto, sul docufilm, sul sito della Wanted, ci sono tutti i prossimi appuntamenti, perché oltre a questo 24, 25, 26 bolognese, il 24 il docufilm esce a livello nazionale. A livello nazionale, in tutte, certo, le sale, lì sul sito della Wanted potete sicuramente trovare. Poi il 24, contemporaneamente all'uscita del docufilm, c'è l'uscita e della colonna sonora del docufilm, sia su vinile che in streaming, che in downloading, che contiene tutti i brani, ovviamente dei Gas Nevada, del racconto di Going Underground, e tre brani inediti che usciranno il 24 in streaming con la Warner, e che sono stati fatti proprio per il docufilm. Fra l'altro, due di questi sono stati firmati anche assieme all'amico Giorgio, per cui direi questi tre brani usciranno anche come singoli veri o no? Dunque, 45 adesso, giri. Adesso escono come su streaming e downloading, sai, perché adesso la... Ma sono presenti nell'album che esce della colonna nell'album, sonora? Certo, ah, nell'album, certo, okay. Sì. Però tieni presente che adesso la fruizione della musica è quasi tutti streaming, a meno che non fai un'edizione speciale come quella che uscirà, questo doppio vinile molto bello di Going Underground. Adesso la musica è tutta in streaming, neanche più in downloading. Ma però sai, c'è un ritorno del vinile notevole, sì, per edizioni anche speciali. Le cassette, è vero, anche le cassette, tanto hanno anche le cassette. Sì, io sono pieno di cassette che non butto via perché uguale, sono affezionato, uguale, ma temo che quando le metto su abbiano perso tutta la magnetica che... dipende come le hai conservate. Va bene, quindi allora, siamo addirittura d'arrivo. Abbiamo però ancora tempo di ascoltare la musica dei Guns N' Roses andando un po' più avanti negli anni, perché adesso, se non sbaglio, abbiamo I See Love Affair. Il brano della svolta. Esatto, il brano qualcosa. Della svolta. Il brano della svolta che è diventato negli anni, senza saperlo, un brano molto amato da DJ internazionali house, perché è diventato una club classic. Però la cosa particolare è che questo brano è stato fatto nell'83 e i primi vagiti dell'house sono nella seconda metà degli anni 80, ed è assolutamente casuale perché noi non sapevamo di questo. Era un brano rockabilly che noi facevamo, il tempo era raddoppiato, noi facevamo col basso elettrico e con la chitarra, la batteria. Però quando siamo andati in studio non ci piaceva per nulla, e così abbiamo cominciato a elaborarlo grazie a interventi anche esterni. E di chi è il piano? Il piano era il movimento della chitarra, e lo fece Roberto Costa, il grande Roberto Costa. Però devo, per citare tutti, devo anche dire che la versione che adesso ascoltiamo è una versione che fece al Castello di Carimate Claudio Ridolfi. All'epoca i mix, non c'è più tempo per raccontare bene, ma erano uno spettacolo perché tutti manuali, si passava il nastro, poi si fermava, si tagliava, ricominciamo, e si, qui accendi la cassa, era uno spettacolo. E ebbe l'intuizione allo Stone Castle, che era gestito da Oderson in quel periodo, almeno c'era di mezzo. Dunque, lui credo che successivamente lo presero, perché all'epoca andavano ancora a noleggio, lo noleggiavano, poi successivamente credo che, anzi sono certo che divenne uno dei soci, fece l'avventura dello studio di registrazione. Ma la cosa incredibile fu che quando io mi ricordo ancora che tutte le mie chitarre sono state tutte tolte e io soffrivo perché ero molto giovane, però ero assolutamente affascinato da questo modo di lavorare di non musicisti che lavoravano un brano, e grazie a Dio lo hanno fatto, perché alla fine è un brano che è rimasto, assolutamente. Io personalmente sono legatissimo a questo brano.